Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno. Allora, noi abbiamo insomma spesso, cioè, l'ultima settimana aperto l'assemblea radiofonica del lunedì proprio con voi, che scrivete anche per BG Report, cioè Bergamo Report. Questa mattina aprite il vostro, per chi lo volesse leggere, insomma, bgreport.org, un sito internet di informazione, aprite il vostro sito, il vostro editoriale con l'Italia che se ne frega, e parla in particolar modo dei confini regionali che uccidono più delle terapie intensive. Allora, dici un po' che cosa, come siete arrivati, insomma, a fare questo titolo molto forte e anche questo articolo molto duro. Ma questo titolo parte proprio da un ragionamento che fanno i medici, per cui i medici delle terapie intensive della Lombardia hanno scritto una lettera il 27 marzo a Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente della Regione Lombardia, perché sono totalmente al collasso le terapie intensive della Lombardia, ma non solo, abbiamo visto anche dalle Marche, della Liguria. E questi medici si chiedono una cosa molto logica, che è semplicemente come mai non si considera prioritario il criterio di vicinanza geografica per dare una mano alle terapie al collasso. Per cui, per capirsi, perché una persona che non può avere assistenza ospedaliera in Lombardia non è previsto che venga accolto dai posti di terapia intensiva liberi delle regioni confinanti. Noi abbiamo, come sanno ormai tutti, un boom di casi, in particolare nella zona di Bergamo e Brescia. Considerate che da Brescia a Verona in macchina ci si arriva in pochissimo tempo, perché non sono previsti i trasferimenti. Questa cosa ce la siamo chiesti perché abbiamo visto partire degli aerei militari con dei pazienti che venivano spostati in Puglia, che venivano spostati in Sicilia, che venivano spostati in Germania per essere curati. Parliamo di numeri molto bassi, comunque, però per alleviare il peso agli ospedali bergamaschi sono state spostate le persone. A volte sono anche morti durante il viaggio, non sono nemmeno arrivati agli ospedali, e noi ci chiedevamo perché mettere così sotto stress delle persone già con una grave patologia quando potremmo spostarle nelle regioni, e facciamo fatica a trovare una risposta, nel senso che non è chiaro da un lato se la regione Lombardia sta chiedendo una mano alle altre regioni, perché sentiamo anche un mantra per cui la regione ce la può fare da sola, ma in realtà non ce la sta proprio facendo da sola, e i numeri sono impietosi da questo punto di vista. E quindi questo meccanismo di solidarietà che spesso viene invocato rispetto all'estero, questa immagine dell'Italia abbandonata eccetera, inizia un po' a sgretolarsi quando ci accorgiamo che la solidarietà non esiste neanche tra regione e regione, per cui i cittadini italiani, a seconda di dove nascono, della regione in cui nascono, hanno dei livelli di assistenza diversificati, e anche in una situazione di emergenza sanitaria come questa non si risponde in maniera solidale. Noi vediamo essere arrivati in Lombardia medici dal Venezuela, da Cuba, dalla Russia, dalla Cina, dall'Albania, che ci portano solidarietà, professionalità, danno la mano che possono al nostro sistema sanitario, e poi magari vediamo la regione limitrofa confinante che invece pensa solo a se stessa. E quindi in questo senso il titolo era un po' l'Italia che se ne frega, perché i meccanismi di solidarietà dentro questo sistema di federalismo sanitario fanno acqua da tutte le parti. Ma scusa, perché questo? Cioè, vi siete chiesti, vi siete risposti perché non avviene questo trasferimento? Ecco, si manda gente, fra l'altro un paziente sembra è morto nel trasporto mentre andava a Bari, no? Esatto. Perché non avviene questo, insomma? Perché c'è alcuni vincoli che sono determinati da una competenza che è regionale della sanità. Dipende da questo? Da cosa dipende? Allora, il meccanismo tra regioni che stiamo un po' cercando di capire, se noi avessimo chiaro, per cui facciamo l'esempio della Lombardia, che Fontana richiede aiuto a Zaia, e avessimo delle carte che chiedono l'aiuto e capiamo se c'è un diniego o meno, per noi questa cosa qua sarebbe leggibile e chiara. Il problema è che l'aiuto, a quanto pare pubblicamente, non viene chiesto e le carte non ci risultano che viene chiesto. Per cui è probabile che questo tipo di rapporti avvengano in maniera indiretta. Esiste un meccanismo per cui un paziente può essere preso da un altro ospedale, ma è un meccanismo, si chiama CROSS, che è sulla base dell'iniziativa del singolo ospedale che chiede aiuto e capisce se qualchedun altro in Italia dice sì, te lo do io l'aiuto, ma senza che questo sia obbligatorio. Per cui è successo che appunto alcuni ospedali della Puglia o della Sicilia stiano collaborando da questo punto di vista, però non è un meccanismo automatico, è un meccanismo che va richiesto. Io ieri parlavo con il Friuli Venezia Giulia, che diceva: noi abbiamo in questo momento in tutta la regione 59 posti occupati dalla in terapia intensiva, 5 persone in questo caso sono venute dalla regione Lombardia. Sono venuti perché l'8 marzo Borrelli della Protezione Civile annunciava il trasferimento di 73 pazienti. Sono anche numeri abbastanza bassi se noi pensiamo al numero di malati che ha necessità in questo momento della terapia intensiva in Lombardia. Sappiamo che ne sono avvenuti 13 di spostamenti, non sono convinto che siano avvenuti tutti i 73, però è un meccanismo che non è automatico, è discrezionale dal punto di vista delle regioni, per cui non abbiamo un meccanismo solidale che funziona. Abbiamo questo dispositivo CROSS che permette a degli ospedali di candidarsi nel dare una mano, però è una scelta del singolo ospedale, della singola struttura sanitaria, e quindi non è un meccanismo automatico, e dentro questa situazione mi sembra incredibile non portare una persona che ha bisogno di assistenza immediata a mezz'ora di macchina, ma pensare di trasferirlo appunto come si diceva con un aereo militare, col rischio che poi la persona non ce la faccia. Senti, ci parlavi anche della questione dei medici di base. Sì, i medici di base sono un'altra categoria che in questo momento è stremata. 6 su 10 sono positivi ai tamponi. I medici che fanno lavoro sul territorio, sappiamo come è stata molto messa in discussione negli ultimi anni, soprattutto dalla destra in governo in Lombardia, la necessità dei medici di base, il loro ruolo è stato ridimensionato, e i medici di base sono in particolare il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Bergamo, che Guido Marinoni ieri ha dichiarato in maniera molto chiara che la sensazione è che le informazioni vengano manipolate. Queste sono le parole che utilizza. Dice: è vero che sono diminuiti gli accessi al pronto soccorso in questo momento, ma questo dato viene presentato come una vittoria, ma in realtà la mancanza di accessi ai pronto soccorso in questo momento è motivato dal fatto che gli ospedali sono pieni e non hanno più posto, non si sa più dove ricoverare i malati, e quindi abbiamo un calo di accessi al pronto soccorso, e questa cosa qua viene detta in maniera molto chiara, anche perché si tenta di fatto di con questi numeri falsificati si tenta di coprire le responsabilità di un sistema che non sta funzionando. Già era emersa la questione dei numeri anche rispetto alle morti, non vengono fatti i tamponi. Qua si calcola che siano 3-4 volte i morti che vengono dichiarati per coronavirus rispetto al reale, ma non lo stanno dicendo noi, lo stanno dicendo i sindaci, lo stanno dicendo i sindaci che contano e provano a confrontare i morti dello stesso periodo dell'anno scorso con quelli di quest'anno e i casi ufficiali di coronavirus, e la somma non quadra perché i morti sono molti, ma molto di più. C'è una telefonata per te, te la mando in diretta. Certo, grazie. Vediamo se vi sentite, vai. Ecco, volevo così ragionare un po' su questo fatto anche sul titolo che hanno fatto i compagni su a Bergamo di questa l'Italia che se ne frega, eccetera, perché qui indubbiamente c'è non esplicitato in questi giorni, ma non dobbiamo dimenticarlo, la regionalizzazione dell'assistenza sanitaria, quindi le competenze regionali. Però diceva il compagno qui, in effetti non si capisce bene perché non ti dicono ufficialmente niente, non ci sono richieste d'aiuto, almeno dichiarate ufficialmente da Fontana per esempio a Zaia o comunque tra regioni, però degli spostamenti magari si avvertono eccetera. Io credo che noi dovremmo mettere insieme qui delle riflessioni che comprendono anche fattori extrasanitari ma squisitamente politici, come tutto il tema che fino a due mesi fa, prima dell'epidemia, era sulle prime, non solo sulle prime pagine, ma era soprattutto sul tavolo del governo, e cioè quello dell'autonomia differenziata, perché qui non crolla solo l'immagine dell'assistenza sanitaria lombarda, qui vengono meno almeno uno dei presupposti principali per cui le regioni devono fare un po', è giusto che le regioni facciano per conto loro. Io credo in buona sostanza che personaggi come Zaia e Fontana, che fino a ieri sono andati a braccetto nel richiedere l'autonomia differenziata e nel battere i pugni sul tavolo, oggi di fronte all'emergenza sanitaria dicono ognuno per fatti suoi, e per cui ufficialmente non si richiedono aiuto, ma magari poi tramite circuiti privati, perché io sono pronto a scommettere che molte delle persone che vengono spostate per esempio in Germania, che a questo punto diventa un pellegrinaggio ambito, passatemi il termine, magari sono favori personali che attraverso il circuito della sanità privata vengono diciamo fatti arrivare fino ai potentati regionali. Cioè, voglio dire, credo che sia gestito tutto in sordina per non far venire fuori il dato eclatante del fallimento del sistema sanitario nazionale, ma in particolare di quello regionale, e a catena il discorso dell'autonomia differenziata in termini politici generali, di cui io credo che dovremmo cominciare a ragionare. Adesso ci sono delle altre priorità, evidentemente, ed è giusto che seguiamo quelle, ma insomma anche all'attenzione dei movimenti e dei compagni questo discorso dell'autonomia differenziata andrà riproposto, perché finora soprattutto dalle regioni del nord, e non è una critica, è solo una constatazione, mi sembra che sia venuto un po' poco come riflessione di carattere sociale, cioè che lacerazione produce questo approccio, questa maggiore autonomia delle regioni sul piano proprio del sociale delle persone. Grazie, scusa. Grazie a te. Allora sì, sicuramente questo è uno dei temi, cioè la questione della sanità è evidentemente un settore che produce un giro di affari incredibile. La gestione regionale lo vede, la storia della Lombardia ha visto da sempre numerosi casi di corruzione, è un po' la gallina delle uova d'oro la sanità in Lombardia, e quindi riuscire in questo momento crediamo che sia anche un po' ci sia un po' un timore diffuso, che dimostrare che un sistema regionale sanitario ha dei grossi limiti riapre una prospettiva di una centralizzazione del sistema sanitario che può diventare l'ordine del giorno, e è un elemento su cui davvero dovremmo, secondo me, ragionare tutti, perché se noi guardassimo i dati, per esempio, sembrerebbe, io non ho dei grossi dubbi, che il sistema per esempio in Veneto sia funzionato molto meglio della Lombardia, anche perché sono state fatte delle scelte, che è stata quella dell'isolamento di Vo e Uganeo, della zona rossa, e dell'utilizzo immediato di tamponi. In Lombardia all'inizio i tamponi praticamente non se ne facevano, e la mancata zona rossa nella provincia di Bergamo è stato uno dei fattori che ha contribuito all'espandersi del virus e alla situazione attuale. Per cui a seconda, appunto, a pochi chilometri di distanza abbiamo delle scelte totalmente diverse, ma soprattutto, e ognuno se le gioca molto queste scelte, nel senso che cioè si sta facendo con la conferenza stampa quotidiana, regionale, nazionale, eccetera. Qua ci forniscono dei dati come se dimostra, cioè sembra il bollettino di guerra, stiamo vincendo la battaglia. Ogni giorno abbiamo il racconto sulla base dei numeri. Noi ormai siamo certi che i numeri sono falsi e quindi bisogna capire perché i numeri sono falsi, a cosa serve falsificare i numeri. Qua tutti sembra che, cioè, Fontana dice la Lombardia ce la fa da sola, no, la Lombardia non ce la sta proprio facendo, è evidente, tant'è vero che chiede una mano, che sta arrivando una mano dalla Russia, dalla Cina, da Cuba, eccetera. E allora perché non dire non ce la stiamo facendo? Perché evidentemente ci si gioca dal punto di vista politico il fatto che i limiti dei tagli, la gestione come è stata fatta finora, il fatto che una marea di privati accreditati non collaborano rispetto a questa emergenza, dimostra un po' la fragilità di questo sistema. Quando si parlava di numeri, noi abbiamo Paola Pedrini, che è la segretaria regionale di Medicina Generale, che dice: di quali numeri parliamo allora? La verità è che se calano in modo minimo gli accessi al pronto soccorso, l'aumento vistoso sul territorio non è segnalato, e dice questo serve semplicemente per nascondere le responsabilità dei generali nella caporetto della sanità pubblica italiana. E queste sono le parole di Paola Pedrini.